out, non gli dai il numero, che quello ti rompe le scatole. Tu no, out, è bravo, sì sì, vai va. Tanto se proprio com'è che da sia, io glielo dico, gli dico che guardi il numero ad out, così ti toglie il branchino tuo padre, aspetta. Che tu non te la prendessi con me e poi tu vai a dare il numero a lui, te l'ho detto che non ce la fidassi con quel ragazzo. Provati, quando c'era il numero di Zebra, ne hanno fatto scusarsi anche se non ha cambiato numero. Adesso dimmi la verità che non è vero, auto, è vero, non è vero, vero, non è vero, vero, perché se per Danilo Snoopy si rompe l'anima, è vero.